le centinaia di milioni di persone a cui dovremmo pensare di offrirlo per turismo, per interesse culturale, di offrirlo oggi come l'abbiamo offerto ieri e per i secoli e i millenni a venire, possibilmente, visto l'addensamento di patrimonio che c'è in questo territorio. Ecco, oggi parleremo di un paese che si chiama Bello, bel paese per definizione, e che ha bisogno di un'intensa campagna per tornare a essere meno brutto di quello che è, e lo faremo da un punto di vista, il mio, che non è detto che sia coincidente con gli ospiti che vi presento, perché io sono di quelli che dice che bisogna anche fare poi le opere pubbliche, bisogna fare le infrastrutturazioni, bisogna uscire da questo blocco per cui non facciamo autostrade e così via, ma si può e si deve fare il tutto in un paese come questo, levando i veti e contemporaneamente preservando il bello. Quindi oggi di questa campagna parleremo, e ne parleremo per sconfiggere chi? Per sconfiggere i tanti personaggi della vita pubblica italiana che sono esattamente come in un film Gallo Cedrone, di cui vi faccio sentire questo ideale comizio, chiamiamolo così, l'onorevole Verdone, per capirci. Signori elettori, ma sto fiume vi piace o non vi piace? Ci serve o non ci serve? Perché se ci serve, allora io lo voglio vivere, lo voglio navigare, ci voglio pure fare bagno al limite. Ma se non ci serve, e io dico che non ci serve, signori, non ci serve, levamolo, sotterramolo, prosciugamolo. Seguitemi bene in questa mia straordinaria intuizione. Al posto del fiume, una lunga lingua d'asfalto, a tre corsie, Los Angeles. Risultato 2 punti virgolette. Traffico azzerato. Inquinamento disintegrato. Guarda a destra, vedo verde. Guarda a sinistra, arrivedo verde. Guarda in alto, vede i rondini. Senza più l'ombra del gabbiano, non ci sono più gabbiani. Eccone uno, vattene al mare che te l'abbiamo pure ripulito. Guardo davanti, se scorre. Signori, se scorre, finalmente se scorre a Roma. Bravo! Ecco, pochi forse hanno il fegato di aver detto, di aver fatto così, però poi di fatto in molti in Italia hanno fatto così, e anche per questo che poi abbiamo poche opere ben fatte e poi abbiamo finito per averne poche, ne abbiamo tante invece mal fatte, tante costruzioni abusive, ce ne siamo occupati molte volte, abbiamo fatto 2 trasmissioni gli ultimi mesi su Campania e su Ischia, abbiamo parlato degli famosi abusi di necessità, e abbiamo quasi sempre scoperto, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che di necessità ce n'è ben poca, anche se molta viene spacciata per necessità. Allora, oggi interroghiamoci con chi fa di una campagna per vi chiede di mobilitarvi per dare testimonianza diretta delle tante prove di un paese che deve essere meno brutto, un grande motore di questi fenomeni di collasso rituale sistemico dell'ipocrisia italiana. A me sta simpatico per questo, al di là della grandezza per quello che ha fatto nella vita, che non spetta a me magnificare, perché lo testimoniano centinaia, migliaia di premi, riconoscimenti e così via. Abbiamo Oliviero Toscani, che ringrazio per dedicarci questa ora del suo tempo. Buongiorno Oliviero Toscani. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo un autore di un libro che vi coautore di un libro che vi suggerisco su questo tema, e cioè Ferruccio Sansa, che ha firmato con altri colleghi, Garibaldi, Massari, Preve, Salvagiulo, un libro che si chiama La Colata. Buongiorno. Che, buongiorno, buongiorno. È per Chiare Lettere ed è il prosieguo di un altro volume che è uscito 1 anno e mezzo fa, esattamente dedicato, insomma, al partito del cemento. E poi abbiamo più tardi avremo anche Marco Magnifico, il vicepresidente del FAI, e intanto abbiamo con noi fin dall'inizio Vittorio Moretti, costruttore, imprenditore per la holding Terra Moretti. Buongiorno Moretti. Buongiorno. Al quale chiederemo di fare un po' in questa recita collettiva la parte, per così dire, del pentito positivo. Però cominciamo da Oliviero Toscani. Oliviero, in cosa consiste la campagna e l'appello agli italiani? Sono fotografo, quindi vorrei che tutti diventassero fotografi, perché al giorno d'oggi è molto facile, no? Tutti abbiamo, incredibile, una macchina fotografica in tasca col telefonino. Allora chiedo a tutti di aprire gli occhi, guardare, di non accettare passivamente l'abbruttimento del nostro paese, perché proprio perché avendo al giorno d'oggi una macchina fotografica in tasca possiamo documentare, fare i delatori dicendo: questo è brutto, cosa ne pensate? Questo non mi piace. Qui c'era una cosa bella e adesso hanno costruito questa cosa che è brutta, o hanno restaurato male, o hanno il progetto non mi piace. Quindi tutti noi possiamo diventare, partecipare in prima persona al riabbellimento dell'Italia, perché l'Italia è come una bella donna, tutti dicono sì, ma è impossibile, no, l'altro giorno uno diceva è impossibile rovinarla, è così bella, ma è come una bella donna, gli si taglia un piede, una gamba, un braccio, gli si fanno sfreggere, è sempre una bella donna, sì, però in che condizione? Ecco quello che è successo in questo paese. Quindi chiedo a tutti di mandarmi le fotografie di ciò che loro pensano sia brutto. Allora ipotizziamo che la gente sia in giro, adesso ti sente parlare, inizia con dove sta o se ha in mente una cosa, fa una foto col telefonino in quel posto, sì. Che fa a quel punto? Mi manda la foto a www.nuovopaesaggioitaliano.it. Comunque su Nuovo Paesaggio Italiano ci sono tutti i sistemi come mandare le foto. Guardate che nel raggio di 500 metri di ogni italiano si può fare un libro di bruttezze. Ormai il paese è incredibilmente incrinato di bruttezza. Cioè tutto ciò che è bello appartiene al passato. Pochissime sono le opere in rapporto a ciò che si costruisce, chiaramente. Cioè, chiaro ce ne sono. Però in rapporto a ciò che si costruisce, che hanno un valore. Però non è solamente un fatto di architettura e costruzione. Quando io vedo certi comportamenti, certi programmi televisivi... Forse è un po' la cifra estetica del mondo che ci siamo costruiti in questo paese in particolare, a essere esteticamente ed eticamente un po' inadeguata e insufficiente insieme. Esatto. E quindi l'architettura forse... l'architettura è... È forse la più evidente, perché siamo a contatto costantemente con l'architettura, però è proprio un degrado etico del paese, insomma, basta sentire come si parla in televisione, no? Si inizia sempre dicendo cioè, niente, cioè. Quindi niente. No. Cosa dico? Niente, ma dire niente. Ecco, quindi, ma riguarda tuo giudizio, sì. Siccome gli stili di costruzione, adesso parliamo insomma dell'architettura civile, residenziale, urbana. La più evidente, ma partiamo da lì. Poi faremo una mostra delle mostre, che sarà tutte le donne che si sono fatte rifare la faccia da medici poco avveduti, diciamo così, medici, sì. che pentite. Sono pronto a farle il ritratto e fare una grande mostra, così per dire alle ragazzine giovani di non fare la stessa stupidaggine. Anche questo appartiene al paesaggio italiano. Ah, non c'è dubbio. In città si vedono queste donne completamente storpiate. Ormai Martin Scorsese mi diceva poco tempo fa che è difficilissimo adesso trovare le attrici che hanno ancora dell'espressività, perché tutte si fanno rifare la faccia e hanno perso l'espressività. Io, anche questo appartiene al paesaggio italiano. Invito le ascoltatrici adesso a prendersela con me e non con Oliviero, non equivocate, non vi sta paragonando a brutti palazzi, care signore. Un po' sì, peccato, belle donne che non credono nella loro bellezza, allora devono farsi aggiustare. No, ma lo dicevo perché io sono dell'idea che i brutti palazzi andrebbero abbattuti, se non posso pensare alla stessa cosa delle signore che... No, ma non esistono brutte donne, è che ci sono delle donne che pensano che per essere belle bisogna essere solamente in un certo modo. No, infatti, anche io penso che quelle che andrebbero abbattute, sto ridendo, sono altre, non le brutte ma le cattive. Detto questo, allora, Ferruccio Sanza, io invito davvero a leggere questo libro, La Colata, senza farsi atterrire un po' dalla mole, perché sono belle più di 500 pagine, perché oltre all'impostazione, cui chiedo a Ferruccio Sanza, che è un collega che ha lavorato Messaggero, Repubblica, Secolo XIX, adesso sta al Fatto Quotidiano, è un collega di quelli a cui piace fare le inchieste vecchio stile, documentare, e infatti qui trovate documentato, ricostruito praticamente città per città, per questo è così lungo e appassionante il libro, da Siena a Sanremo, a Genova, a Napoli, a Milano, i punti di maggior addensamento in ognuna delle grandi città italiane, delle vicende più recenti in cui speculazione, consumo di territorio, risparmio di ciò che si utilizza, al di là di quelle che sono invece le convenzioni e concessioni per tirar su opere e palazzi, tutto ciò concorre alla grande distruzione di bellezza e di terreno e di territorio del nostro paese. tutto concorre alla bruttezza d'Italia. Ma qui la questione è sul nodo degli interessi impropri, quelli delle speculazioni sulle aree immobiliari, delle mutazioni di finalità d'uso dei terreni e della politica che insieme ai grandi interessi a volte disinvoltamente butta sotto i piedi norme, criteri, volumetrie eccetera eccetera. Qual è l'impressione, chiedo a Ferruccio Sanza, perché la cosa che mi ha colpito rispetto al libro precedente è che nell'introduzione e anche nella conclusione c'è però una nota di ottimismo, per questo l'ho abbinato alla campagna di Oliviero oggi in trasmissione, perché in realtà anche Sanza testimonia che dopo il primo libro c'è stata una reazione simile a quella che chiede Oliviero, cioè la gente ha iniziato a dire guarda qua, aggiungi questo eccetera eccetera. È una nota solo così per dare un senso a questo libro, oppure invece questa reazione dal basso c'è davvero ed è qualcosa che ci consente di sperare, Sanza? La reazione c'è senz'altro e noi stessi ne siamo stati stupiti, perché siamo partiti, diciamo, mossi soprattutto da un desiderio di documentare quello che in Italia ci stiamo mangiando, rovinando per sempre, perché come diceva anche Oliviero Toscani, la bellezza è la nostra principale ricchezza, vuol dire appunto una vita più gradevole dal punto di vista proprio visivo, ma vuol dire anche qualità della vita e vuol dire anche salute spesso, e vuol dire ricchezza nel senso proprio economico, perché il turismo è il 15% del nostro PIL e se noi ci mangiamo la bellezza vuol dire che poi ci impoveriamo, si arricchisce magari qualche imprenditore, ma se ci impoveriamo tutti insieme, ci impoveriamo, cioè si svuotano le nostre tasche, perdiamo posti di lavoro. Ecco, noi abbiamo cominciato questo viaggio regione per regione e strada facendo ci siamo resi conto invece che sono molti gli italiani che si battono per difendere l'ambiente, ma non sono quelli che noi chiamiamo i nimby, cioè quelli che non vogliono che si costruisca punto e basta, sono persone che hanno a cuore il loro territorio, perché capiscono che il loro territorio è anche la loro identità e la loro cultura, cioè hanno ben presente questa coincidenza dei diversi elementi, cioè il posto dove viviamo influenza anche il modo in cui noi percepiamo la realtà e la nostra cultura. Ecco, noi appunto, io vi faccio degli esempi concreti, viaggiando per l'Italia abbiamo incontrato le persone che nella valle del Brenta, che è la zona, diciamo, dove Tiziano andava ad attingere i suoi colori, dove Meneghello ha scritto, ambientato i suoi libri, sono persone che si sono battute per difendere questi territori. Lo stesso in Lombardia, il Parco Sud, di cui si parla tanto in questi giorni, che è l'ultimo polmone, grande polmone verde di Milano. In Piemonte, dove si vuole costruire questa cittadella Mediapolis, che non si capisce cosa sia, alle porte di Ivrea, dove c'era l'esempio illuminoso di Adriano Olivetti, che era un industriale che aveva costruito, ma costruito bene e per il benessere dei suoi operai, invece adesso si vuole costruire questa operazione molto molto discutibile in Liguria, dove si sta cementificando la costa sia il centro-destra che il centro-sinistra, diciamo in questo intreccio perverso tra impresa e politica. E poi scendendo per l'Italia dal Senese, dalla vicina Siena, la zona vicina Siena, Roma, Napoli, le saline di Marsala. Ecco, noi siamo andati giù per tutta l'Italia e ci ha colpito proprio che quella gente che si sta battendo, gente comune, per difendere l'ambiente. Ecco, questa per me è la cosa più importante. Mentre i politici che dicono sì al cemento non sono come Verdone, che lo dice apertamente, ma si definiscono magari verdi, ma poi in realtà mettono la firma su delle operazioni molto discutibili, mentre gli imprenditori non mettono il loro nome perché stanno dietro a una lunga serie interminabile di scatole cinesi, il cittadino comune mette nome e cognome, firma delle petizioni per non costruire, rischia, perché si rischia anche di mettersi contro soggetti tanto potenti e si rischia comunque, diciamo, una anche l'impopolarità, perché spesso la popolazione è a favore di queste operazioni, però il cittadino comune ci mette la nome e la faccia e si batte per il proprio paese, per la propria identità. Questa è la nota di speranza che viene fuori dal nostro libro, che è una raccolta di tante storie, di tanti volti, di tante persone. Vittorio Moretti, perché un imprenditore a un certo punto dice no, basta, io aderisco a campagne come queste, c'è qualcosa che non funziona? Perché non è bastato l'autolimite di cui è stato capace di porsi nelle sue realizzazioni, che non sono certo, insomma, la speculazione di cui stiamo parlando, perché a un certo punto, frequentando col tempo sempre di più i colleghi costruttori, dice beh no, c'è bisogno di un vincolo esterno, perché non basta l'autodisciplina, per così dire, oppure perché l'imprenditore in sé e per sé è un italiano come tutti gli italiani, non è certo peggiore, io mi batterei perché spesso fosse migliore, ma in realtà poi non è in grado di resistere alla pressione di un paese che dice di praticare un'etica e un'estetica, poi in realtà ne vuole un'altra, ne preferisce un'altra e dà consenso a queste cose. Per quale ragione si diventa un costruttore pentito, per così dire, del brutto? Dunque, non sono un costruttore pentito. Io vengo da una famiglia che costruisce dal 1400. Quindi abbiamo una grande storia. Noi abbiamo fatto del bello e del brutto, perché purtroppo siamo schiavi del nostro committente. Allora, cosa succede? In Italia è stato costruito sempre del bello, non è come dice Sgarbi, che fino a un certo punto si è costruito il bello e poi non siamo più stati capaci di costruire. Non è vero, perché in Italia si costruisce tuttora il bello e il brutto. Il brutto è dato da un fatto culturale, purtroppo, da un fatto generale, cioè noi siamo legati ad un sistema economico che ha bisogno di costruire per tutta una serie di situazioni, per la nostra vita stessa, perché siamo cresciuti nella popolazione, perché siamo cresciuti nei bisogni, perché abbiamo mille situazioni che ci impongono di costruire. Il problema è che nel dopoguerra c'è stata poca cultura, c'è stata tutta una serie di situazioni che hanno portato alla necessità di costruire, di fare ambienti dove lavorare, dove vivere. Quindi si è andati avanti con un sistema poco culturalizzato, se vogliamo. Oggi ci sono gli architetti che sanno costruire bene, le persone che hanno voglia di costruire bene. Io ho un'azienda tuttora che costruisce bene, ci sono degli esempi che abbiamo fatto in Italia, tutto, anche oggi a Petra, dove verrà presentata la mostra di Toscani, che inizialmente sembrava una costruzione incredibile nel deserto, abbiamo avuto a che fare con un comune di persone lungimiranti che hanno creduto al progetto e oggi è un'opera che vivrà nel tempo e che dà del bello, ha dato al territorio una sua immagine. Ora, aspetti un secondo Moretti, la devo interrompere perché c'è la pubblicità, però voglio riprendere dalla sua prima quando torniamo in studio, perché lei dice noi siamo prigionieri dei committenti. Allora voglio tornare a chiedere, nella sua esperienza, il committente esteticamente indifferente perché è così? Lei dice lo è sempre stato in ogni tempo, dal secondo dopoguerra, ma si continuano a fare cose belle. Allora cosa vuol dire? Che ci sono dei committenti che non sono in onda con questo abbruttimento etico-estetico del paese e altri, no? Oppure poi ci sono costruttori che di fronte al committente sono in grado di dire no, guarda, qui c'è la soglia oltre la quale io non vado. Eccoci tornati in studio in questa trasmissione che noi facciamo malgrado lo sciopero dei giornalisti e senza coinvolgere nessuno dei colleghi come Sansa che oggi ci aiutano a fare questa puntata, che è una puntata insieme a Olivero Toscani, insieme a Vittorio Moretti, insieme a Marco Magnifico che ci raggiungerà tra poco, volta a fare un appello a voi tutti, un appello a rendervi delatori del brutto, del tanto brutto che ci circonda nell'organizzazione degli spazi urbani, architettonici, territoriali. Mandate le foto di questo brutto, mandateli al sito di Nuovo Paesaggio Italiano e rendiamoci tutti coautori di un'operazione collettiva che nasce sulle sensibilità individuali, e questo mi piace perché io sono un personalista, un individualista, ma che dà una mano, un colpo di reni che è necessario per riappropriarsi di un senso del bello e di una cifra di coerenza etico-estetica che è uno dei più grandi contributi alla storia millenaria dell'Occidente da parte del nostro paese. Esattamente questo, l'etica e l'estetica, un'idea dell'uomo che proietta intorno a sé nelle relazioni umane e in ciò in cui avvengono le relazioni umane, cioè gli spazi, una cifra di coerenza tra l'etica e l'estetica. Allora, iniziamo. Io avevo interrotto Moretti esattamente su una domanda, ma visto che siete prigionieri del committente, per usare una formula, quella che ha usato lei, allora il coltello chi è che lo tiene dalla parte del manico e chi invece subisce la parte tagliente? È il costruttore che a un certo punto riesce a imporsi, oppure il committente ha sempre ragione e quindi in realtà il colpevole è lui? Diciamo che, come avevo detto, il committente sicuramente ha il coltello per il manico ed ha sempre ragione. Il buon costruttore cerca di portare il committente sulla buona strada. Quello che ha sensibilità riesce a seguire, quello che non ha sensibilità e che non ha portafogli magari non riesce a seguire, perché purtroppo, o per fortuna, fare il bello costa anche un po' di più. per dire, noi adesso abbiamo realizzato su un'area dismessa a Sesto San Giovanni, che lei sa cos'è Sesto San Giovanni, sull'area Campari, abbiamo realizzato un'opera straordinaria con l'architetto Mario Botta, che ha dato lustro e che dà una nuova immagine a Sesto San Giovanni, cioè gli uffici e una realizzazione immobiliare sull'area ex Campari. Quindi un discorso molto molto importante è quello che il committente ha con l'impresa, perché l'impresa purtroppo è legata alla committenza, e se il committente non ha la cultura per capire che costruire in una maniera o nell'altra costa e comunque c'è una piccola differenza per fare il bello e il brutto, questo diventa deleterio. Noi facciamo il possibile per portare sempre la committenza su questa strada, però è molto difficile, è un discorso che purtroppo, come dicevo, nel nostro dopoguerra la cultura è relativamente buona, e quindi uno che deve costruire un capannone, una fabbrica, guarda i suoi bisogni e non guarda a quello che è l'estetica, perché poi non è giusto dire cemento brutto, costruzioni brutte, no, si tratta solo ed esclusivamente di sensibilità di questo. Quindi se uno ha la sensibilità di riuscire a capire che si può fare il bello o il brutto con più o meno gli stessi costi, ma solo con un po' di cervello, ecco che è risolto il problema. Certo, poi naturalmente al brutto coopera anche l'insensibilità verso i vincoli ambientali, cioè se uno pensa a quanta parte, vista l'orografia italiana, vista come sono organizzati talvolta gli spazi urbani, che hanno rubato terra inabitabile per definizione, rendendola nei secoli abitabile proprio perché era scelta magari per sottrarsi a scorrerie, attacchi e così via, con il risultato che però finché si facevano edifici di un certo tipo non si rischiava, quando poi si fanno costruzioni come quelle moderne si rischia che le frane riprendano e tutto se ne scenda, e questo riguarda un bel numero di città italiane, dalla Liguria a quello che abbiamo visto in Sicilia, per così dire. La mia domanda, Sansa, è questa: ripercorrendo l'Italia idealmente con lo stesso occhio critico dei Piovene o dei Pasolini che richiamate nell'introduzione del libro, esiste o non esiste ancora, e in che gravità, una disparità tra il brutto, le violazioni, gli abusi e anche il rischio poi per le popolazioni che deriva da tutto questo tra sud e nord? Cioè la fotografia del sud con le case tirate alla bella e meglio che durano 20 anni, con i piloni a metà e che sono di pugni nell'occhio per chiunque guardi un qualunque panorama sulle coste calabre o della bassa Campania, resta ancora così, oppure in realtà l'omologazione a ripercorrere l'Italia è molto più stringente di quanto non pensino al nord del sud? Ma purtroppo si sta verificando un'omologazione, però verso il basso, purtroppo non verso l'alto. Uno potrebbe sperare che il sud, dove sappiamo si è costruito per decenni senza regole, stia migliorando, invece è il nord dove si sta costruendo tanto troppo, se pensiamo che soltanto in Lombardia si costruisce quanto si costruisce in tutta la Germania, cioè si mangia territorio quanto se ne mangia in tutta la Germania in un anno. Soltanto in Lombardia scompaiono circa 12 ettari di verde al giorno, mangiati da nuove costruzioni. E qui una cosa che volevo dire, anche dopo aver sentito quello che ha detto Moretti, che mi colpisce sempre, e mi fa piacere invece che Moretti lo sottolinei, che non viene posta questa falsa contrapposizione tra l'industria dell'edilizia e l'ambiente. Ecco, noi abbiamo, durante questo viaggio in Italia, ci siamo resi conto di una cosa, che non bisogna dire o si salva l'ambiente oppure bisogna dare da lavorare nell'industria dell'edilizia, cioè salvando l'ambiente si strozza un importante settore della nostra economia. È falso, perché questo vi faccio due esempi concretissimi. Renato Soru in Sardegna aveva previsto di spendere 500 milioni di euro per il recupero degli antichi borghi dell'interno della Sardegna. Questo era un modo per far lavorare le imprese dell'edilizia, allo stesso tempo per salvaguardare il nostro patrimonio. Allo stesso modo l'Osservatorio per la salvaguardia del territorio in Italia ha stimato in circa 5 miliardi di euro la spesa necessaria per mettere in sicurezza tutto il nostro territorio dalle frane, che va detto in 50 anni hanno provocato 3.500 morti. Invece non si fa assolutamente nulla per questo, e questi 5 miliardi salverebbero vite umane e allo stesso tempo darebbero un forte impulso all'industria. A me colpisce moltissimo il ritorno all'esempio di Adriano Olivetti, che era una persona lungimirante, che era un imprenditore, una persona che diciamo costruiva, era un uomo del fare, come si dice adesso, che però aveva realizzato delle opere che miglioravano la vita delle persone. Io purtroppo negli imprenditori italiani di questi anni vedo raramente, come vedo invece in Moretti, diciamo, questa consapevolezza del loro ruolo e anche questa capacità diciamo di mettere insieme l'interesse proprio con quello pubblico, cioè anche la capacità di dire no al proprio committente. Noi per esempio abbiamo parlato a lungo con imprenditori come Moretti che si oppongono diciamo ai committenti troppo invadenti o committenti che hanno solo presente il proprio interesse. Abbiamo parlato anche con Renzo Piano, per esempio, il grande architetto italiano, che ha detto meglio rinunciare a qualche opera ma mantenere e salvare la propria identità. Guadagniamo un po' meno, ma pensiamo tutti all'interesse comune. Ecco, io su questo a me piacerebbe avere più tempo per dibattere oggi, perché a me capita spesso di lavorare come consulente per l'ANCI, l'Associazione Nazionale Costruttori, e di confrontarmi con loro, e questo è un settore, ha fatto bene senza richiamare, un settore che è in crisi profonda da diversi anni nel nostro paese, ed è un settore che muove molti tra occupati, imprese di filiera e così via, e a confrontarmi con loro su un apparente paradosso che è al centro invece del tema di cui ci occupiamo oggi. Perché l'Italia resta un paese ad altissimo consumo aggiuntivo di territorio, quando invece la terra e il territorio italiano è praticamente finito da utilizzare, ed è al contempo invece un paese caratterizzato da il più basso numero di abbattimenti e ricostruzioni, perché in effetti noi abbiamo un patrimonio immobiliare in cui la tendenza dei proprietari è quella di tenerle vuote o sfitte quando ci sono le lunghe fasi di stasi del mercato, e questo tanto a fini commerciali, locativi o di locazione come posto di impresa, quanto a fini residenziali e nelle città, piuttosto che rinunciare in qualche misura a una quota del prezzo. E questo fa sì che nelle città italiane ci sia al contempo una vasta parte di patrimonio inutilizzato immobiliare, e in più mancati bisogni soddisfatti, perché è una realtà che quella che le grandi città del nostro paese, l'housing sociale, cioè come si organizza la vita per esempio in affitto per giovani che hanno basso reddito disponibile perché stanno studiando, guadagnano poco eccetera eccetera, è un problema irrisolto, e ci vogliono interventi di edilizia ad hoc. Allora, mettere insieme l'obiettivo di non deprimere il settore, A, B, di non consumare territorio aggiuntivo, più abbattimenti e ricostruzioni, non nuovi cambi di finalità d'uso, di estensioni sempre più ampie intorno alle città, C, con un'idea però concreta in testa di bisogni a cui bisogna dare una risposta. Ecco, queste tre cose sono un po' poco coordinate, per così dire, nel nostro paese. Una testimonianza e un'opinione di Marco Magnifico, vicepresidente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Il FAI è una istituzione, per così dire, non pubblica, ma insomma nata dalla volontà e dall'associazionismo di privati che molto si batte per temi come questi, e dà una mano potente anche poi a rendere rifruibili, a riaprire parti del patrimonio che sono parte integrante di questo patrimonio straordinario a disposizione dell'umanità, che è il patrimonio storico, architettonico, monumentale del nostro paese. Magnifico. L'insensibilità verso il bello nell'organizzazione degli spazi urbani, architettonici, nella tutela del territorio. Lei che dice, è sull'opinione di Moretti che dice c'è sempre stato il bello e il brutto ed è così, oppure è sull'opinione di chi dice c'è un peggioramento che deriva da una cifra estetica, o c'è un peggioramento che deriva semplicemente dal fatto che siamo diventati tutti meno attenti? C'è un peggioramento che secondo me è derivante dalla insensibilità di chi governa il territorio. Una volta c'erano le commissioni per l'arredo urbano, per la bellezza urbana, i sindaci delle città di solito provenivano, ahimè, ecco, non è più così, da una borghesia illuminata che sapeva, che conosceva, che aveva una cultura, che sapeva distinguere il bello dal brutto. E oggi non è più così, ma soprattutto se anche gli amministratori fossero coscienti, purtroppo sono molto spesso così preda di interessi così forti ai quali non possono sottrarsi. Vediamo cosa sta succedendo a Milano, voglio dire, a Milano c'è in atto una guerra sanguinosa, non soltanto per il PGT, ma la guerra più grossa che dovremo combattere a Milano nel milanese nei prossimi anni è quella per la salvezza del Parco Agricolo Sud, dove che è il grandissimo, straordinario, stupefacente polmone della nostra città, ma soprattutto che è la stessa identità storica della città di Milano, la cui ricchezza si fonda sulla sua campagna fertile, ubertosa, per la quale Maria Teresa d'Austria, che non voleva mollarlo perché si rendeva conto che era la campagna più meravigliosa d'Europa. Magnifico, un inciso solo per dire che noi ci occuperemo del PGT di Milano in una trasmissione o la prossima o la settimana ancora dopo, molto perché bene. A nostro giudizio è una cosa su cui riflettere con tanti elementi di discontinuità sul passato. Prego. Ecco, qui naturalmente il problema è che gli appetiti dei costruttori sono formidabili, per cui è evidente che di fronte a interessi così forti la tutela del bello, della tradizione e della cultura tradizionale passano in secondo piano. Lei prima parlava, se ne parlava in trasmissione, del mancato utilizzo di spazi storici, centri storici. Noi ci stiamo occupando da anni di Mediapolis, c'è un capitolo sulla colata molto ben fatto, peccato gli accenni un po' polemici alla nostra Presidente onoraria, ma non importa, abbiamo tentato in tutti i modi e stiamo forse riuscendo a convincere gli amministratori del Canavese, cioè della zona di Ivrea, che sverginare un territorio assolutamente intatto, stupefacente, con una colata per l'appunto di cemento di 60 ettari, perché sono 60 ettari questo parco mediatico, che in effetti è un gigantesco centro commerciale, è una follia, mentre tutti i paesi così ormai sopravvivono a se stessi completamente vuoti, e quando un parco come Mediapolis avrebbe potuto tranquillamente essere fatto nelle aree industriali dismesse della zona di Ivrea, ma naturalmente costa troppo. Il fatto è che costa molto meno costruire del nuovo piuttosto che restaurare il vecchio, perché restaurare il vecchio ci vuole un'attenzione e ovviamente una consapevolezza diversa, e tirare su quattro capannoni costa molto meno. Quindi il problema purtroppo è quello degli amministratori pubblici, sia di destra che di sinistra. Io non ho parole per come l'amministrazione regionale di piemontese, quindi la Bresso, ha reagito e ha gestito la vicenda di Mediapolis in maniera pessima, ma mi sembra che anche l'attuale amministrazione regionale abbia subito detto via libera Mediapolis, quindi non c'è veramente colore, c'è una insensibilità che nasce secondo me dalla ignoranza, dalla non consapevolezza che il patrimonio, la bellezza, il paesaggio sono un valore della nazione. E guardi, le faccio un esempio soltanto e poi mi fermo. Quando la signora Crespi parlò con l'allora presidente di Mediapolis, che era un grande banchiere, e gli disse: ma lei si rende conto di quello che state facendo? E quel grande banchiere, del quale per pietà non faccio il nome, disse: ma signora, ma qui c'è solo campagna. Ecco, questo è l'atteggiamento io sono uno sviluppista, ma mi batto però perché le esigenze dello sviluppo, e quindi anche per costruire, riedificare, abbattere, ritirare su, io penso che siano nella cifra di molti paesi che conosco, paesi scandinavi, paesi dell'area anglosassone, paesi europei, penso anche alla Francia in talune aree, in altre è diventata un po' come l'Italia, però insomma è possibile essere per lo sviluppo, realizzare opere, infrastrutture eccetera, e contemporaneamente avere una tutela all'altezza della nostra storia e tradizione, di ciò che dobbiamo offrire al mondo oltre che a noi stessi. Se abbiamo rispetto di noi stessi e amiamo noi stessi e i nostri figli, dobbiamo farlo. Questo io credo che sia possibile. Credo che molti costruttori, committenti e politici siano prigionieri da 20 anni del fatto oramai che, a furia di non fare più no, di questa cultura del veto che viene vissuto un po' come il limite da superare, alla fine si dice sia tutto e non si guarda più neanche alla tutela di ciò che si tutela meglio non facendo. No, bisogna tutelare facendo. Eccoci tornati in studio per l'appello lanciato da Oliviero Toscani a farvi tutti delatori del brutto, e vediamo se anche qualche telefonata intanto raccoglie l'appello. Iniziamo con Pino da Porto Venere. Buongiorno, grazie per la chiamata e per il programma, nel momento in cui abbiamo il premier che fa gli sport sulla bella Italia. Mi riferisco al paesaggio. No, di ma io quelli, guardi, io vorrei che ci fossero gli spot per la bella Italia, perché non mi pare che dobbiamo dire che facciamo schifo. Il problema è poi renderla ancora più bella l'Italia, meno brutta. Ho i miei dubbi. Comunque volevo segnalare Porto Venere e le Cinque Terre, paesaggio tutelato, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Se certamente Oliviero Toscani conosce Porto Venere, un albergo da 25 anni diroccato nel pieno centro storico, nel pieno borgo antico, con tutte le impalcature arrugginite, in orrenda vista, non c'è assolutamente segno di alcun cambiamento. In questa provincia, in questa regione, l'articolo 9, 41 e 42 della Carta Costituzionale non esistono. Non esiste l'articolo 734 del codice penale e seguenti. Va bene, al di là dell'elenco degli articoli del codice, qui c'è un problema in particolare da 25 anni Porto Venere, comunque Sanza questo lo conosce bene e ne parla, per così dire, a testimonianza del fatto che la Liguria non è che stia nel nord e si salva, c'è un nord e un sud uniti, per così dire, nel degrado da questo punto di vista. Grazie, appena sentiamo Giuseppe da Chieti. Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo segnalare uno scempio che si sta consumando in Atessa, un comune in provincia di Chieti. Si sta letteralmente sbancando l'unico polmone verde che c'è nel centro storico, dove c'era la villa comunale, fino a qualche tempo fa, c'è ancora. Fino a 100 anni fa c'era il cimitero, si sta sbancando un'area sottoposta a vincolo paesistico, dove c'è una scarpata, quindi un vincolo di inedificabilità. Motivo? Com'è? Motivo? Per realizzare 40 appartamenti e 2000 metri quadrati di commerciale, 30.000 metri cubi di cemento. E l'amministrazione comunale cos'è stato? Una variante a un piano regolatore? Non c'è piano regolatore? Come funziona dal punto di vista regolamentare la faccenda? Allora, io sono stato 10 anni sindaco di questa città e ho lasciato in eredità un finanziamento per un contratto di quartiere. Subentrata la nuova amministrazione, ha mutato il progetto e sta realizzando questo. Ma la cosa grave, volevo dissentire da quanto emergeva dal dibattito, è che la cittadinanza a questo punto, a lavori iniziati, essendo il centro storico paralizzato, non è, pur nella consapevolezza che è una cosa che non va, è favorevole. Cioè, non blocchiamo, non frapponiamo ostacoli, perché sennò si blocca il cantiere. È favorevole. E questo devo dire che constato anch'io molto spesso. Io ripeto, credo che questa reazione, che è molto più diffusa di quanto non sembri, non testimonia affatto l'insensibilità degli italiani. Io l'ho vista crescere in questi ultimi 20 anni come una reazione alla cultura del veto. Mi sbaglierò, questo abbiamo sensibilità diverse anche tra chi siamo oggi qui in trasmissione, però io penso che a furia di dire no a tutto, la gente oramai applaude un cantiere di qualunque tipo, poi un po' troppo tardi dopo, se chi ha realizzato l'opera tra costruttore, committente, la parte pubblica che deve, ha in mano gli strumenti di governo del territorio e non ci ha messo per tempo debito l'attenzione, questo è un po' il problema. In conclusione, torniamo con Oliviero Toscani, che da anni tenta di farci autocollassare rispetto alle nostre lenti ipocrite con cui guardiamo a noi stessi, al mondo. Si tratti dell'anoressia come del brutto oggi, si tratti dei volti italiani di un paese che diventa multiintegrato tra culture e provenienze diverse nel mondo e che stenta poi invece a descriversi così civilmente nel dibattito pubblico. Oggi l'obiettivo di questa nuova campagna e la vede speranzosa. In questi anni ha visto ricrescere intorno a sé una cultura estetica di massa del bello nei suoi appelli, oppure in realtà è deluso più di quanto non dica? Sono deluso, però quello ho sentito prima, che gli italiani sono sensibili. Gli italiani sono sensibili, cioè sono sensibili, quando si parla di questo capiscono, però ci si adegua, abbiamo dei succhi gastrici molto sviluppati. Allora io devo ringraziare particolarmente Vittorio Moretti, imprenditore di Pentito. Non è vero Pentito, è un uomo che sa cos'è il bello e si rende conto che potrebbe costruire il bello sempre, però condizionati da tante ragioni, dopo guerra c'è stata la ricostruzione, avevamo voglia di fare, insomma, adesso non voglio stare lì a analizzare tutti i grandi problemi per cui abbiamo rovinato l'Italia. Adesso dobbiamo, non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi, io trovo, per una cosa così. Allora, Vittorio Moretti è stato lui in fondo a a darmi l'energia e dire mettiamo insieme qualcosa per poter finalmente fare qualcosa, per poter costruire il bello. E ha messo a disposizione questa cantina su Veretto, dove domani apriremo questa esposizione, dove faremo l'esposizione di tutti i fotografi dell'attore. Io li chiamo i fotografi utili. La fotografia è un mezzo di comunicazione che deve essere utile, non deve essere attaccata sui muri come fotografia d'arte. Stanno arrivando delle foto incredibili, come vedete anche quelli che chiamano adesso, dicono qui a Porto Venere, qui c'è. Fantastico, ragazzi, mandate le fotografie, mettiamo insieme tutte le forze, le energie di chi vuole rifare, far ritornare bello questo paese, e metteremo insieme un'azione culturale, grazie a Vittorio Moretti, al suo gruppo di lavoro, al FAI sicuramente, che ormai sappiamo tutti l'importanza che ha. Questa mostra la porteremo in giro per l'Italia per far vedere che tutti noi possiamo contribuire individualmente a far ritornare il paese bello come era una volta. Ma è possibile che il bello sia e non fare niente e curare le piantine, esatto, e gli alberelli? Ambientalismo vuol dire costruire bene, vuol dire il buon governo del Lorenzetti. Vuol dire costruire con grande capacità artigianale, questa grande capacità artigianale che il nostro paese ha perso. Tornare a essere ciò che nella storia, nella tradizione è il meglio di questo paese, e quindi non abbiamo smarrito la capacità, dobbiamo solo rifocalizzarci tra chi ha il governo del territorio, tra chi fa le committenze e chi costruisce. Questo sì. Forse per questo, dal basso c'è bisogno di documentare, mandate quindi a www.nuovopaesaggioitaliano.it le vostre documentazioni, fatevi anche voi delatori del brutto, e grazie a Olivero Toscani che si è inventato insieme ai suoi collaboratori questa nuova campagna civile di mobilitazione, a Ferruccio Sanza per i libri che scrive insieme a chi ne condivide le opinioni e la passione civile, di una maniera di fare il giornalismo che a me piace molto, Vittorio Moretti, che non è un costruttore pentito, come ho detto io, però insomma una formula per tirargli su fuori la voglia di continuare a fare invece costruttore del bello, e Marco Magnifico, che è il vicepresidente del FAI. Grazie a tutti voi. Io continuo a dire, mi dispiace, sciopero non lo farò mai da giornalista, perché il mio mestiere lo si fa esercitandolo, non mi interessa se qualcuno mi vuole mettere a bavaglio, ci provi, gli taglio la mano, ma intanto io altrimenti parlo. Pochi mi hanno dato il crumiro, mi aspettavo di più, solo qualcuno, non sono crumiro, rispetto la maggioranza che oggi sciopera, però contro una legge sbagliata, si protesta lavorando di più.